Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'année 2014, 3 buts inscrits par le Suédois, 10e minute, 39e minute et 42e minute. Voilà, bravo, le public s'y trompe pas, ovation, standing ovation pour Mister Zlatan. Voilà, ça c'est toujours agréable pour un joueur adverse de sortir sous les applaudissements. Est-ce que vous vous souvenez qui avait ovationné debout le Suédois pour sa prestation en Ligue des Champions. Innegociable. Para gol. Estaba donde tenía que estar. Falló en el control Montoya. El balón muerto para Leo. Leo. Leo. Con la zurda marca de nuevo Lionel. Vuelve la pulga. Vuelve Leo. Marca el tercero. Barça 3. Leo Messi. Getafe 0. Buongiorno a tutti, siamo sempre a Fitti. Siamo sempre qua. Ciao, siamo Pierluigi sempre Fardo. Qua. Buongiorno a tutti, come va? Grande cast per Fitti, c'è Stan The Bridge, Laura Manossi qui in redazione, Paolo Corleone in regia, Davide Cioce vicino a me, siamo Pierluigi Pardo, una Franco qualità Bezzanita, diffusa a Milano in autore di questo programma, insomma. È il trionfo del Made in Italy, diciamo, adesso siamo da Fitti e quindi ho deciso non che stiamo essere. Qua fino all'edizione di giugno. Sì, può essere una buona idea. Facciamo allora gli auguri alla Lazio, 114 anni festeggiati oggi. Io stamattina in un tweet un po' ardito ho messo anche uno storico gruppo di tifosi della Roma. Sì. E allora quelli della Roma dicono no, ma si festeggia sulla Roma, quelli della Lazio dicono no, si festeggia sulla Lazio. Comunque sa fare un po' come vi pare, però 114 anni di storia sono evidentemente tanti. Non si possono dimenticare né tralasciare. La Lazio allora lavora sul mercato come tutte le altre società. Stasera c'è Udinese-Inter che è già uno snodo cruciale, c'è Roma-Samp alle 6. Poi coppe nazionali, abbiamo sentito in apertura con la colonna sonora di Superman, l'avrete riconosciuta, i 3 gol di Ibra a Brest, sì, i 2 di Messi al Getafe, rientrando c'erano anche i 3 di Negredo nel Manchester City, poi sono contorni piccanti sulle coppe nazionali come Mazzarri, che sentiremo tra poco, che insomma ha avuto da dire sulle polemiche che sono state fatte sull'Inter in questo periodo. Stasera Udine Mazzarri, mercatissimo, e poi ne parliamo. Bolle di sapone sui mondiali d'inverno, perché hanno detto li facciamo, Falchi ha detto li facciamo d'inverno, poi la FIFA ha detto no, aspetta, i parrucconi hanno detto aspetta un attimo, opinione personale, vedremo. Ma soprattutto noi adesso nella prossima ora vi diremo tutta la verità sul doppio petto e sul tacco 12, perché insomma se noi usciamo da 2 giorni di Pitti senza avere un'idea chiara su come dovremmo vestirci da adesso in poi, allora tu fai il doppio ricordiamo petto. Che siamo ospiti di The Bridge. Tu fai doppio petto e il tacco 12, va bene? Vabbè. Allora, ti piace, facciamo così. Frase inquietante. Allora, sì. Ascoltatori 800240024, messaggi 349-238-6666. In più, chi viene qui vuole parlare, lo facciamo parlare. Sì, assolutamente. C'è allo libertà stand di parola di The Bridge. Qui al Pitti, vicino all'entrata principale, Fortezza Rabasso. Siamo un po' chiusi, cioè, si formano dei capannelli fuori, ma è più la gente timida che poi. Perché siamo come dentro un acquario. La signorina ha un cappello rosa, quel cappello rosa lo vedrei bene a Laura Manossi. Vabbè. Senti, ma vuoi sentire Mazzarri cosa ha detto sulle polemiche relative all'Inter negli ultimi giorni? Sì. Innanzitutto, molti tifosi dell'Inter, non so se vogliono farlo anche oggi ai nostri microfoni, hanno detto: vabbè, ma tutto sommato, guardiamo i punti, guardiamo i gol subiti, guardiamo il rapporto qualità-prezzo. potevamo anche tenerci stramaccioni. Mazzarri no, non è tanto no, non, è, ma no, non è d'accordissimo, ma dai, ma non scherziamo, vai, sentiamo Mazzarri. Intanto, se si vuole fare il confronto fra l'Inter e il Milan, a questo punto me l'ha fatto la domanda, io ci devo entrare, io di solito guardo solo a casa mia. Non ci scordiamo che l'Inter l'anno scorso, purtroppo sappiamo com'è finita l'annata, quanti punti ha fatto questo gruppo che poi io ho ereditato nel girone di ritorno soprattutto, perché se avesse fatto i punti che ha fatto il girone d'andata di sicuro non ci sarei probabilmente stato io all'Inter, perché ci sarebbe stato l'allenatore che c'era, giusto? Quindi il rapporto va fatto come è finito il campionato e guardare con attenzione che quelli, i ragazzi che hanno finito il campionato poi hanno ripreso quest'anno a fare l'anno successivo e sono arrivato io, quindi il paragone è incredibile farlo ora. Beh, sono d'accordo, no, sono d'accordo, sinceramente sono d'accordo. Sei d'accordo, d'accordo o no? Ah, sì, sì. Mm. Cioè paragonare la stagione dell'Inter l'anno scorso è stata talmente discontinua, talmente disomogenea fra la prima e la seconda parte, che fare il confronto giornata per giornata con un anno fa non ha veramente senso. No, non ha senso, ma poi non abbiamo detto tutti, non hanno detto tutti gli interisti che Mazzarri era stato un fenomeno, Harry Potter con la bacchetta magica che ha fatto diventare Jonathan sì. un giocatore, Alvarez un giocatore. Quello forse, adesso è un po' finito, no? Cioè, beh, facendo insomma, un bilancio adesso è un po' meno Harry Potter, però sì. Però resta Jonathan, che non sembrava un giocatore, sembrava un giocatore di da spiaggia, no? Sì, e adesso sì. È comunque un giocatore di calcio. Lo stesso Alvarez un po' molto in calo nelle ultime giornate, sì, però l'Inter ha fatto 6 punti nelle ultime 6 partite, questo non va dimenticato, e tira pochissimo in porta, e ci sono state alcune giornate in cui ha giocato molto aperta, ha avuto sì. tante palle gol, ma ha anche subito tanti gol come con il Parma e con il Napoli, e poi nelle ultime partite ha sistemato la fase difensiva perché ha concesso poco, però ha anche tirato pochissimo in porta, insomma non riesce ancora a tirar fuori il meglio, ha tanta emergenza, un mercato che non ha funzionato, fra poco parliamo di mercato, fra l'altro noi parliamo molto di mercato perché c'è l'effetto onda sul Milan che ora vuole Fernandes, sarebbe secondo me una buona idea, la meeting della Fiorentina per sostituire Giuseppe Rossi. Aspetta, fra poco c'è il traffico, sì. Subito dopo il traffico Pierluigi Pardo vi dirà dove andrà Cassano. No, no, che ne so. Vabbè, sì, no, ve lo dirò. Lo dici? Facciamo un teaser. Sì, fra poco vi facciamo dico. Outing? Tutto. No, outing no. No, l'ha già un fatto teaser. Ieri. Teaser. No, vabbè. It's a Sperger. Tutti convocati. Allora, rispondo a Christian da Brescia che mi manda un SMS dicendo tanta. Lui sa cosa vuol dire. Allora, tra poco sentiamo anche un'altra cosa che Mazzarri non ha fatto giù, cioè il paragone con il Milan. Ma prima, dove va Cassano, Pierluigi? Ma no, io penso che rimanga a Parma, ha fatto una conferenza stampa apposta. No, tu vuoi coinvolgermi su un'idea Cassano per la Fiorentina che nelle ultime Cassano ore rimbalza a Firenze. C'è stato un vertice mercato importante, pare che la Fiorentina sia pronta a mettere sul piatto da parte della famiglia della Valle altri 10 milioni di euro. E c'è l'ipotesi del Papu Gomez, che è un'ipotesi caldissima. C'è anche, sono stati fatti tanti nomi, fra questi anche quello di Cassano, che però ricordiamo qualche giorno fa ha chiuso di fatto la porta a un trasferimento dopo che c'era stato tanta attenzione, secondo me più mediatica che altro, da sì. parte della Sampdoria. Io Cassano alla Fiorentina lo vedrei benissimo, in questa Fiorentina lo vedrei benissimo. Tra l'altro l'idea del matrimonio Firenze-Cassano si è parlato, ti ricordi? Fu a un metro e mezzo da Firenze, Garrone padre, che bloccò la trattativa in quella domenica mattina di Samp Catania, nella quale cambiò improvvisamente tutto. Era il febbraio, credo, del 2010, sì. E meglio, gennaio del 2010, e però insomma sicuramente c'è stato sempre feeling reciproco. Però detto questo, io rimango a quello che ho visto, cioè che Cassano sta bene a Parma e che la Samp era una suggestione, come ha detto anche lui in conferenza stampa, molto molto bella, molto romantica, ma insomma non era una suggestione, ma non c'è una situazione tale da dover per forza far partire il giocatore, perché comunque il rapporto con i compagni, il rendimento e con l'allenatore mi sembra un rapporto perfetto. Senti, chiediamo lumi su questa voce a Luca Marchetti da Sky. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Cassano la Fiorentina. Che cos'è questa inutile vivacità, eh? Perché stavo correndo e quindi, come dire, mascheravo l'affanno con la velocità. Ah, okay, grandissimo, che professionista. Senti, ma stiamo parlando di questa voce stamattina, vertice di mercato a due passi da qui, da Pitti. Se la Fiorentina, vertice di mercato, è uscita questa voce, questa possibilità, questa suggestione Cassano in Viola. Ti devo dire la verità, era venuta in mente anche a me come tipologia di giocatore. Credo che però Piero abbia risposto, peraltro lui è il cassanologo per eccellenza, quindi se lui dice no, basta così. No, no, io non dico no, io dico che sta bene a Parma. Chiamiamo mi Cassano, risulta, no? Che sia bene a Parma. Ci sono stati fischi l'altro giorno, sicuramente non gli avranno fatto sì, troppo però, piacere. Però, se uno sta bene a Parma, flirta con la Sampdoria, no, ma esce la voce di... Ma guarda che posso dire una cosa, la cosa della Samp, e Luca la potrà confermare, è stata una cosa essenzialmente mediatica. Nel senso che a un certo punto tutti hanno cominciato a scrivere che la Samp cercava Cassano. C'era, credo, e questo Luca forse lo confermerà, una disponibilità del Parma di ascoltare delle proposte, vero Luca? Sì, sì, ma credo che ci fosse anche la disponibilità della Samp a parlarne. Mancava una cosa soltanto, i soldi. Soldi, dici poco, no? Che invece è un po' il leitmotiv del mercato di oggi, Certo, sì. Che invece la Fiorentina, questo non ci sono dubbi, però io credo la Fiorentina abbia fatto stamattina il nome di Cassano in questo meeting, è venuto fuori, ma ne sono venuti fuori 25, cioè c'è Quagliarella, c'è Borriello, c'è Osvaldo, e quindi insomma. Poi ci sono questi intrecci con la Juventus che vorrebbe Quadrado, che è un altro, secondo me Quadrado potrebbe essere la Viola, non so, la Viola non lo dà. La Viola non lo dà, ma fa bene a un darlo, perché secondo me è. Può essere una polizza per il futuro, può essere un asset per il futuro, si vuole tenere al Quadrado. In questo momento è forse il giocatore di maggior valore strategico che ha la Fiorentina. Cosa chi prende alla fine, Luca, secondo te? Gomez. Gomez in questo momento è il più facile da prendere, quindi siccome ci sono 20 giorni, gli altri sono tutti difficili. Osvaldo provato, prestito no, Jovetic provato no. Con la Juve non puoi parlare, neanche se metti sul piatto Quadrado, perché comunque la Fiorentina non lo vuole vendere. Borriello guadagna tanto, Matri potrebbe essere una buona idea. Sì, Matri che non riesce a trovare casa, non riesce a trovare pace. Però questo vedi dipende molto, cioè intrecciare Matri con Quagliarella, Matri con Cassano, Matri con col Papu Gomez. Ma a parte che sono giocatori diversi, No, significa anche secondo me fare un grande punto interrogativo su Gomez, Mario, nel senso se Mario Gomez sta bene. Cosa, e qui c'è cioè, uno dei misteri, cioè, il mistero di Fiesole questo. Se Gomez recupera, come si dice, torna contro il Catania e da metà gennaio si mette a giocare e a segnare per la Fiorentina, perché devi cercare una prima punta come Matri? A quel punto cerchi una seconda punta o un trequartista al limite, no? Guarda, la Fiorentina in realtà, lo sai, Pier, cerca un giocatore che possa giocare sia da prima che da seconda punta. Perché poi Mario Gomez io gli auguro che sia benissimo, ma se gli viene un raffreddore poi la Fiorentina la prima punta non ce l'ha comunque. Quindi uno come Cassano per esempio, o come Quagliarella, come tipologia di giocatore fa benissimo. Sì, non sì, tutti sì, hanno sì. questo tipo di disponibilità tecnica. Sì. Cosa da dirci Tino da Modena secondo te, Piero? Tino, buongiorno. Tino. Sì, buongiorno a lei. Volevo dire due cose. Una a lei... di avere più fiducia in Conte, perché fino a che ha giocato la Juve con la Fiorentina l'ha accusato un po', adesso che sta vincendo è tutto facile dire. E un'altra cosa, Pierluigi, dove migliorerebbe la Juve? Dove migliorerebbe la Juve? Secondo me io dico un esterno, tu cosa dici? C'è un ascoltatore che scrive: riusciremo mai a prendere Di Maria? Secondo me giocatore indispensabile per questo. Beh, Di Maria. Insomma, beh, si sta cercando un grande esterno offensivo. Secondo me Conte, al di là di tutto, si sta rendendo conto che forse, essendo questa squadra eccezionale per quello che fa, l'unico vero margine di miglioramento è cambiare un po' il modulo, cioè giocare in Europa in maniera ancora più aperta e più arrogante, più prepotente. Questo magari in certe circostanze è un po' mancato, e per fare questo devi avere dei grandi giocatori offensivi. La Juve è difficilmente migliorabile, ragazzi, perché comunque è una squadra fortissima che ha secondo me 2-3 top player, tanto ci piace questa espressione, e deve puntare ad averne qualcuno in più. Ma non è che ha delle aree di debolezza, sicuramente gli esterni sono migliorabili proprio andando a cercare il pelo dell'uovo, ma in generale non è una squadra che ha bisogno di No, però, non ha un'emergenza perché... in un reparto. No, è una squadra, è una squadra che chiaramente certo, se prendi Di Maria è ovvio può diventare un grande acquisto, se prendi un grande difensore. Cioè anche Cuadrado sarebbe sarebbe un valore aggiunto. Stanno cercando Cuadrado, stanno cercando la mela, si parla di la mela Vucinic, Luca, o è una buttade? Ma ti devo dire la verità, a noi non risulta niente. Peraltro se mai il Tottenham prendesse in considerazione questa ipotesi, io credo che la Juve lo farebbe domani mattina, perché sono due giocatori che hanno dei valori completamente diversi sul mercato, non fosse altro che per l'età. Che Lamela sia un giocatore con le caratteristiche da Juve, sì, ma io credo che la Juve, con tutto il rispetto per Lamela, ne vada a cercare uno anche più forte. Chi? Poi magari lo riesce a prendere, non riesce a prenderlo e quindi fra virgolette si accontenta di Lamela, ma Lamela in questo momento è un'operazione da fare in prestito, il Tottenham l'ha pagato molto, non la vedo semplice come operazione. Chi sta cercando realmente la Juventus? Un attaccante esterno, sì, senza doverci spendere troppo, ecco, troppo nel senso alla possibilità del club italiano. Un giocatore come Nani che è in scadenza di contratto e che quindi il suo cartellino vale di meno, magari uno come Di Maria che litiga con l'ambiente e che quindi è costretto ad andare via. Su questo tipo di giocatori sta andando la Juventus. L'Inter che fa? Toir qualcosa spende o... No, Toir no. Spende quello che guadagna, quello che risparmia, soldo guadagnato, soldo risparmiato. Quindi la chiave è Guarin. Vende vende Guarin l'Inter e quindi parte il mercato, oppure sarà un mercato anche fatto bel po' dire al West Ham, si legge. Sì, ma da lì non prendi niente. No, beh, chiaro, sì. Anche perché non vale moltissimo, secondo me. No. Vabbè, vale il doppio di Cassano. No? Vale il doppio di Cassano. Dalla rotazione, quant'è la rotazione? Cassano più 7 per Belfodil, quant'era? Guarda, alla fine l'Inter credo che abbia pagato la prima metà di Belfodil 10 milioni di euro. Che è un sproposito. È un ragazzo. C'è stata una valutazione probabilmente eccessiva, no? Nel calciomercato di giugno. Mi intriga invece il mercato della Roma, perché al di là di, si legge di Bradley che potrebbe riattraversare l'oceano, quindi tornare negli Stati Uniti o meglio in Canada, a Toronto. Però la Roma, dopo aver preso Nainggolan, mi sembra sia molto attiva. Cioè, forse addirittura la sconfitta con la Juventus l'ha incattivita, tra virgolette, ancora di più su questo mercato. Guarda, leggenda vuole che Sabatini, dopo la sconfitta con la Juventus, abbia chiamato immediatamente Cellino per cercare di chiudere con il Cagliari per Nainggolan e quindi per rinfrancare la tifoseria con quell'acquisto. Io adesso sinceramente non so se è vero o no, però è romantico crederlo. E risulta anche a me, quindi o abbiamo la stessa fonte oppure oppure è vero. No, tu indizi, no? Detto questo, la Roma secondo me sta facendo un mercato molto importante e molto che mi piace molto. Contrariamente a quello che fa la Juventus, cerca giovani all'estero, la Juventus cerca giovani in Italia, ma queste sono le uniche due società importanti in Italia che stanno lavorando sui ragazzi, comprandoli, non investendo nel settore giovanile, però stanno cercando di mettere sotto contratto tanti ragazzi dalle ottime prospettive. Poi magari nessuno di questi diventa un campione, o magari, come invece è successo con Marquinhos, diventano dei crack appena un anno dopo. Sì. Senti, questa è una filosofia decisamente interessante sia per la Juve che per la Roma. Ultima cosa, Marchetti, prima di parlare, di passare poi alla Ternana, che Luca Marchetti sappiamo di termini, no, in Napoli, perché insomma lì ci sono delle complessità, lo sappiamo dal punto di vista proprio di trattativa, no? con questo discorso dei diritti d'immagine, insomma, De Laurentiis è un grande presidente, è un presidente però che ha un approccio molto entertainment a tutto ciò che è l'acquisto dei giocatori, per cui sono tutte questi cavilli che delle volte possono rallentare le trattative. Come vedi il mercato del Napoli e chi prende alla fine? Vai, palla di vetro, via. Ti dico una cosa innanzitutto, che le difficoltà che il Napoli ha avuto nella trattativa con Alon non sono addebitabili al Napoli o a De Laurentiis. Cioè, che bella idea, Olas. Il presidente Olà si è comportato in maniera non ortodossa. Generalmente quando io ti chiedo una cosa, se la vendi o meno, se tu mi dici di sì e mi dici anche un prezzo, poi se io a quel prezzo ci arrivo me la devi dare. Se mi dici di no, ti sei comportato male tu. Il Napoli in questo momento ha la necessità di andare a prendere un centrocampista, non è come dire un vezzo quello di Benitez che dice che ne ha bisogno. Ne ha bisogno anche perché Berami si è fatto male, ancora non sappiamo quali sono i tempi di recupero. Sta fuori un bel po', perché sì. Comunque ne ha bisogno da prima. I nomi sono più o meno quattro: Onvilà, Giussilei, in Italia Jorginho. Quindi credo che siano tra questi, tra questo ci possa essere il nuovo acquisto del Napoli. Sì, in Jorginho questo che momento, se mi dovessi lanciare, dico Giussilei perché ci sono stati già i primi contatti con l'Anci e con il procuratore, però siamo a contatti. Però vediamo cosa succede. Grazie Luca, buon lavoro. Ciao Luca, a te, ciao. A voi. Ciao, Giussilei, ciao. Mi ama o no? Che citazione è? Sì, però è grande. Giovanni dalla provincia di Napoli invece. Giovanni. Buongiorno a tutti. No, volevo fare i complimenti all'acquisto della Roma, Nainggolan, che sì, la Roma si è incastrita così tanto che alla vigilia della partita con il Cagliari gli fa un piacere alla Roma. Poi si lamentano che non vincono mai, il Pupone non vincerà mai perché si trova una società che non è alla stessa. No, aspetta, che cos'è questa cosa del favore alla Roma? No, praticamente noi dobbiamo giocare la Juve, sono io la Juve ovviamente, così il Cagliari. E la Roma si affitta a Nainggolan, il miglior giocatore del Cagliari. Non poteva. Infatti, alla Roma conveniva lasciarlo una settimana in più. Che cosa successo? Sono d'accordo. Sì, conveniva. Guarda chi c'è. Conveniva. Allora, arriva guest star subito dopo il GR, no? La borsa. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, sono circondato da due sosia, cioè Serzi è più bello, diciamo la verità. Fai finta di essere la Tiki Taka, fammi una presentazione molto roboante della guest star. Piccininiana. Benvenuto, un amico che torna a trovarci, Serzi Cosmi. Ciao Serzi. Ciao a tutti. E poi, con un computer sottilissimo, Carlo Genta. Bene. Allora, la grafica di Giovanni, basta. Serse, chi prenderesti? Ma subito? Sì. Ma vado subito? No, sono già vicino, mi è entrato vicino. Oh, va bene. Sciabola! Stiamo parlando dell'Inter, del mercato dell'Inter, di Mazzarri che ha detto: non voglio paragoni con Stramaccioni perché non è il caso, eccetera. Di cosa ha bisogno l'Inter? Che mi sembra il tema del momento. Ma io credo che l'Inter abbia bisogno di diverse cose, però in assoluto, visto come è andato questa prima parte di campionato, un attaccante, perché Milito e Palacio sono una bella coppia se giocassero insieme, se avessero la possibilità di giocare insieme. Senti, ma Belfodil e Icardi sono giocatori di calcio? No, sono giocatori di calcio, dai, però sono giovani da Inter, voglio dire, e molto chiaro. Probabilmente hanno avuto qualche difficoltà, alcuni di Icardi per motivi fisici e non solo, psicofisici, in senso lato, facciamo così. E Belfodil molto probabilmente non si è ambientato, come capita tantissimo, però ecco, secondo me se fossero stati subito dietro a Milito e Palacio tutti avrebbero avuto più pazienza. E credo che anche il modulo adottato da Mazzarri, quello di giocare con una sola punta, nasce proprio da questo, da un problema, da un'emergenza, insomma, dal fatto di non avere due punti. Ma l'ha detto anche lui ieri. Sì, l'ha detto lui, insomma. Ma insomma, a Napoli quando aveva gli attaccanti come Lavezzi, Cavani e Hamsik, ha giocato anche con loro, insomma, anche contro attaccanti. Quindi siamo a Firenze. Ti piace Pitti? Bello, sì, molto. Vengo sempre. Sacco di gente. Sì. 800240024, se volete parlare con noi, tra poco c'è Francesca da Milano che è in linea e la facciamo parlare con Serse Cosmi. No, stavamo parlando, visto che siamo qui a Firenze, di questa suggestione uscita oggi, poi Pardo ha già smentito. No, io non l'ho smentito. No, vabbè, hai detto che non è fattibile. Guarda che ti metto in bocca delle cose. No, insomma, è fattibile, come lo vedresti, però Cassano non la Fiorentina. Sta male a Parma. Tutto qua. È uscita oggi questa notizia, è stato verso il mercato. Due o tre anni fa doveva venire qua, sì. Poi non è successo, quindi, ma sai, Cassano è uno di quei giocatori che credo tutte le persone alle quali piace il calcio e quindi di conseguenza le cose del calcio non possono fare a meno di pensare che se lo prendi hai qualcosa in più. E quindi io mi fermo a questo. Sai che io più ci penso e più mi suona. Io non, anche a me ho suona, semplicemente sai, detto che sta bene suona a Parma, perché sicuramente sta bene a Parma. Però l'idea, è vero che lui ha detto che ha lo 0,0% di possibilità di andare in nazionale, di farsi 5 mesi a 2 metri e mezzo da Coverciano, da casa di Prandelli, giocando all'inizio al posto, anche se con caratteristiche diverse, di Pepito, perché chiaro, Pepito ha caratteristiche. Ma guarda che per me è perfetto, prima punta. Ah, per te è perfetto, per me è perfetto. Senti, invece la Juve come migliora? Prima c'era un ascoltatore che ce lo chiedeva, nel senso che in Italia abbiamo visto, i numeri sono impressionanti, la squadra pazzesca, clamorosa, in Europa dove è più difficile perché le partite sono di meno e può capitare di scivolare come è successo quest'anno. Però insomma, se tu oggi fossi Agnelli, dove va rafforzata la squadra? Ma io prenderei un esterno sinistro, però il problema è che di ruolo, ovviamente, perché Peluso, perché Asamoah sono degli ottimi giocatori per il nostro campionato, però è chiaro, insomma, per la Juve, visto che gioca Vidal, visto che c'è Pirlo, visto che c'è Pogba, che c'è Tevez, quindi è normale che pensi inevitabilmente a un terzino di quel livello, un esterno. Pogba non ha prezzo? No, ha un prezzo alto. Cioè 50-60 milioni, ammesso che si possa, sarebbe la fortuna della Juve. Certo, ammesso che si possa resistere a 50-60 milioni, tu resisteresti? No, io le venderei. Assolutamente. Proprio non, in questo mercato e in questo calcio italiano non, a quei soldi non si può dire di no, assolutamente. Sai che io continuo a pensare a Cassano, ci vedrei bene se Cosme allenare Cassano. Anche lui me l'ha detto qualche volta. Te l'ha detto? Ma questo mi ha preoccupato. Bravo. Mi piace perché è uno che ha la disciplina. Bravo. Francesca Milano, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno ciao a tutti. Allora, innanzitutto mi inchino davanti a Serse Cosmi, che ha tutta la mia ammirazione. Lo vorrei all'Inter subito, a spezzare subito le gambine a parecchi che fanno parte della nostra squadra. Tipo? Facciamo dei nomi, dai, tanto gente, siamo politicamente scorretti. Per la concentrazione, non riesce a star concentrata a 90 minuti, professionisti di Serie A. È una vergogna, è veramente una vergogna. Nomi, guarda la formazione, insomma, è quella che è. E comunque, il motivo per cui ho chiamato era Mazzarri. Sì. Finalmente un allenatore professionista. L'anno scorso noi non avevamo un allenatore professionista. È stato messo in mano a un bambino, carino, educato, elegante, un po' paraculo col presidente, una squadra di Serie A, che non è stato in grado di gestire. Mazzarri ho meno punti di Stramaccioni l'anno scorso perché non ha i calciatori. È semplicissimo. Sì. Ma cioè, questo come dice, lo diciamo da tempo. Come dice Mourinho, anche il più grande chef non riesce a fare una frittata se non ha delle uova di qualità. A noi mancano le uova di qualità. Allora sentiamo Franci, sentiamo Serse Cosmi come la pensa su questo argomento. No, io sono d'accordo sul fatto che non si possano far paragoni, perché ogni anno è completamente è molto diverso dall'altro, quindi l'Inter di anno scorso era diversa da questa, e quindi secondo me è perdita di tempo star lì a vedere chi ha fatto più o meno punti, anche perché di solito il conto è quello finale. Bravo. Non è mai parziale, quindi bisognerebbe aspettare questo. Sulla concentrazione dei giocatori concordo, non quelli dell'Inter, concordo in generale, perché è vero che se non ci fossero cali di concentrazione o degli errori non ci sarebbero gol, però è anche vero che non è una giustificazione, insomma. Cioè, quando una squadra prende, ripeto, non è l'Inter, dico in generale, ma prende gol e sento dire per calo di concentrazione, mi preoccupo, perché cioè, voglio dire, ognuno di noi deve rimanere come se uno guidasse senza concentrazione, insomma. È chiaro che una volta ti va bene, ma quella dopo vai a sbattere, certo. Quindi nel calcio i danni sono minori. Comunque è il mercato, dai, è il mercato che l'Inter ha sbagliato, nel senso che se tu vuoi l'Inter non ha fatto più. Beh, no, l'ha fatto, no? Perché i soldi l'ha spesi, perché Belfodil l'ha preso, perché Icardi l'ha preso, perché Campagnaro, anche se a parametro zero l'ha preso, è stato l'unico che è stato comunque titolare almeno all'inizio. Insomma, secondo me questa è la chiave. Ha ragione Mazzarri quando dice che è la stessa squadra di Stramaccioni. È la stessa squadra di Stramaccioni, anche però perché i soldi che in estate sono stati spesi male, o per giocatori che per lui sono seconde linee, al di là dei problemi fisici che ci sono e che hanno complicato ovviamente il quadro per quanto riguarda Icardi, però insomma, oltre alle battute, dico, però è evidente che insomma questo è il... è mancato l'inserimento di nuove pedine sul mercato. Posso fare una domanda io? Certo. Sì. Se Walter Sabatini avesse fatto il mercato dell'Inter, l'Inter avrebbe gli stessi punti? Vabbè. No. immagino che sia una domanda retorica questa. No, no, no, no, probabilmente, stiamo parlando probabilmente no, intorno probabilmente a tante no, cose, di Mazzarri, no. Quindi parliamo anche, ovviamente, non credo che Mazzarri sia stato così invasivo nelle scelte di mercato. Forse è stato poco invasivo. Ecco, ecco. Quindi essendo stato poco, questi sono i risultati, insomma. Giocatori che non gli assomigliano, che non gli servivano, che ha fatto giocare pochissimo al netto degli infortuni e che quindi non hanno aiutato. Andiamo da Vincenzo a Ferrara, sì, sì. Tifoso della SPAL, vero Vincenzo? Vincenzo? Vincenzo? Vincenzo, è caduto Vincenzo, è caduto Vincenzo, lo so, Vincenzo. Vincenzo, ciao. Francesca Milano è sempre lei. Francesca Milano è sempre lei. L'abbiamo già sentita. È Piero di Francesca Milano, Milano città, non è una città infestata dalle francese. Non è 800-24-0024, comunque per chi vuole intervenire. A proposito della Roma, adesso ha preso Nainggolan. Secondo me il campionato è finito, Sergio, onestamente. Diciamoci la verità. Campionato è finito perché questa Juventus, l'ho detto l'altro giorno, deve implodere, cioè deve succedere qualcosa di clamoroso per perdere 8 punti. No, deve implodere e contemporaneamente Roma e Napoli devono fare cose importanti. Sì. Quindi sono due le cose che devono succedere. Sì, beh, adesso dire che è finito può essere un errore, perché sento dire lo stesso Conte diceva che lui ha perso uno scudetto con 9 punti di vantaggio, insomma, sì, con molte meno giornate. Mi verrebbe da dire che le concorrenti erano leggermente diverse, bravo, certo, certo, oltre che come numero. E anche forse che le grandi perdevano più punti in generale, perché sì, c'è anche questo, cioè che oggi la Juve va su un campo difficile come quello di Bergamo, dove uno dei pochi campi dove potenzialmente può perdere dei punti, e vince 4-1, cioè, sì, questa è la sostanza. Sì, invece andavi a Perugia. Vabbè, adesso questa no, è la Juve, però, cioè, in generale, un esempio. No. Ah, certo, il Milan, nella mia gestione a Perugia, il Milan è venuto 4 volte a Perugia, ha fatto un pareggio e 3 sconfitte. Il Milan che vinse 2 scudetti, cioè, quindi non, cioè, per dire Perugia come per dire altri campi. Quindi la differenza tra grandi e piccole è cresciuta. Sì, è cresciuta notevolmente, nonostante che poi, cioè, una volta c'erano anche 2 squadre in meno e una retrocessione in più. Quindi tu immagina, una volta si parla fino al 2004, insomma, al 2004, quindi era anche un campionato secondo me molto più complicato, ma erano veramente 5-6 squadre che lottavano per lo scudetto. Quest'anno è capitato che casualmente una squadra ha fatto pensare di poter lottare per lo scudetto e un'altra che si pensava fosse più vicina invece è in ritardo, che è il Napoli. Certo. Poi obiettivamente ditemi voi se qualcuno pensava che Milan e Inter quest'anno potessero vincere lo scudetto. Però la cosa, no, dice Serze, che è sfuggita ai più, è fondamentale, cioè 4 retrocessioni su 18 squadre significa che erano poche le situazioni di squadre che non avevano nulla da chiedere al campionato. 3 retrocessioni su 20 squadre significa che insomma, dopo che è una da aprile, no? In poi, ecco, hai versato l'acqua nel vino. Anche se poi sappiamo che l'effetto di tutto quello che è successo, ovviamente, con le scommesse, ha portato insomma una particolare attenzione nell'evitare distrazioni, nell'evitare, sì, di arrivare demotivati nelle ultime giornate, proprio per non ingenerare sospetti che in realtà in passato invece c'erano. Senti, il Napoli aspetta. Sì. Sai che abbiamo il tuo appuntamento preferito? Ci dai altri 5 minuti, Sergio? Sì. Tu vuoi sapere il traffico da Perugia a Firenze? Come si viene? Spero che non ci sia la nebbia, no, di stamattina. C'è la com'è? Che si prende da Perugia a Firenze? La Bretellina? Le Bretellina. Cioè. Va bene, come si chiama quella cosa lì? C'è l'accordo da Perugia, Valdichiana. La Bretellina, che è offensivo. È l'unico collegamento. Allora, fra poco, traffico con tutte le novità sul raccordo Perugia-Valdichiana. Convocati. Grandi ragazzi del traffico che hanno subito aggiornato Serse Cosmi, sì, sulla situazione nebbia, sta risalendo la nebbia. Ci sono da quelle parti. Da sottolineare i 20.000 stamattina all'allenamento del Napoli. Adesso io, sì, poi si potranno anche fare delle stime sulla produttività della giornata. Però insomma, poi erano tutti bambini, perché però è bello, insomma, no? In anni nei quali siamo qui a dire che gli stadi sono vuoti, che la passione per il calcio sembra in certi momenti affievolirsi, 20.000 persone a vedere un allenamento non è male, eh? È un bello spettacolo. Non è solo sapere, perché da quelle parti allenato. Senti, voglio parlare un attimo di giapponesi, visto che il Perugia è stato l'antesignano di questa via orientale. Pochi minuti fa, effetto giorno, è intervenuto Carlo Lancella, sì, ex presidente del Perugia, di quando il Perugia acquistò Nakata. Sentiamo cosa ha detto. Sì, io non personalmente andò lui e venne ricevuto effettivamente come un capo di Stato. Addirittura lo andarono a prendere sotto l'aereo dove le misero un tappeto rosso che arrivava fino all'ingresso dell'aeroporto. Quindi puoi immaginare per i giapponesi che cosa significa dal punto di vista del marketing proprio un fatto del genere. Una maglia Nakata per noi era oro. Allora, Serse, Nakata ha aperto questa via orientale, adesso è arrivato il Beckham del Giappone, onda, giocatori giapponesi curiosamente riescono a funzionare piuttosto bene nel campionato italiano. Sì, è vero, intanto faccio una premessa, Nakata al di là del fatto che fosse giapponese, quindi di un paese... Era un bel giocatore. Era veramente un grande giocatore, l'ha dimostrata Perugia, l'ha dimostrata Roma e un carattere, una mentalità veramente di grandissimo livello, sia in campo, negli allenamenti che fuori dal campo. Quindi... Beh, lui poi ha fatto questa svolta della sua vita di cominciare a viaggiare per il mondo, sì, io l'ho incontrato quest'anno. A 31 anni credo che abbia smesso di giocare a calcio. Sì, l'ho incontrato a Rio, che seguiva la e c'è qualcuno che non si riesce a convincere in Italia a farli smettere. Ah, sì, dici che... Sono gli allenatori che fanno smettere. Tu immagina lui che era un campione ha smesso da solo. Ma Honda, ci può essere il paragone tecnico fra Honda e Nakata? Oggi no, io credo che Nakata non me ne voglia il Milan. Oggi Nakata sarebbe servito molto al Milan e a tutte le squadre, quel Nakata. Però Honda è più o meno di quel livello. Sono d'accordo con Zaccheroni quando lui dice che i giocatori giapponesi sono un po' sottovalutati nel nostro calcio. Basta vedere Nagatomo, che non un giapponese di grandissimo livello, nell'Inter si è ritagliato un ruolo da titolare meritato e spesso ha fatto la differenza. Quindi sono convinto che può far bene al di là del marketing, certo, di tutte quelle storie. Certo. L'unico dubbio legittimo per chi sta nel calcio è che se avessero trovato un giapponese in un altro ruolo forse era meglio. Tipo? A cos'è? Difesa? Beh, un difensore, un esterno, un centrocampista, insomma. Cioè, lui tutti gli altri ruoli del possibile. È vero che si troverà la maniera di farlo giocare insieme a Kakà, insieme a Balotelli, insieme però senti, ma sai, io ho questa fissa di Balotelli, te lo devo chiedere. Tu come lo alleneresti, Balotelli? Cioè, io continuo a pensare che sia il più grande talento del calcio italiano. E io lo penso esattamente come te. Mi trovo spesso ad essere, non dico accusato, però... Io sì, tutti i giorni. Come talento è in assoluto, non c'è nessuno. Guarda, parlavo proprio con mio figlio in strada e dicevo: ma secondo te chi è più forte, Higuain o Balotelli? Perché a volte questi dubbi mi vengono dal fatto che io e lui riconosco un qualcosa di nettamente superiore a tutti, forse solo Ibrahimovic. Sì, io anche. O Benzema, cioè. Beh, tecnicamente è più bravo Higuain. No, tecnicamente. Di Balotelli? Poi Balotelli ha più bravo Balotelli di Higuain, no, tecnicamente. No, per me Balotelli, ha più forza fisica, ha più esplosività, calcia più forte, Higuain come giocatore più tecnico e più fatto e finito. Lo dicono anche sì, ma anche, no? Anche diverso come caratteristica. Ma certo, ma stiamo parlando di due fenomeni. Il problema è vero che io Higuain l'ho visto giocare al massimo delle sue potenzialità. Io Balotelli ancora al massimo di quello che lui possiede non l'ho visto mai giocare, per questo i nostri giudizi sono sempre incompiuti, perché ti lasciano capire che potrebbe, però spesso non lo fa. Però non mi parlate di tecnica, cioè, fisicamente c'è uno dei pochissimi giocatori nel mondo che prende palla da fermo, la sposta e salta l'avversario, quindi quello è un gran vantaggio, un pochino quello che aveva Cassano un po' di anni fa quando era più esplosivo. C'aveva una fisicità incredibile, più sente il giocatore vicino e più va via con facilità. Soluzioni al volo credo che ce ne siano pochi. Tira punizioni vere da ogni parte, batte calcio d'angolo, di testa non è un fenomeno ma è di ottimo livello, se dice di rincorrere un avversario lo rincorre e spesso ruba la palla. Il problema è che ho detto tante cose che lui fa saltuariamente. Se lui, come mi auguro, anzi come gli auguro, riuscisse a fare tutte queste cose dai 23-24 anni in poi, che ecco l'età che sta raggiungendo, allora io penso che possa essere in assoluto, se non il migliore, uno dei tre migliori centravanti del mondo. Come giocherà? Sono allora, d'accordo. Premesso che facciamo tutto un grande in bocca al lupo, oltre che a Balotelli, anche a Pepito ritornare. Ma se per qualche malaugurata ipotesi Pepito non dovesse dare garanzie, come gioca Prandelli? Come giocheresti tu? Balotelli? Lì sarebbe un problema, perché sembrava che magicamente si fosse trovato ogni soluzione, perché sembrano veramente nati per giocare insieme. Non lo so, non lo so, perché gli altri sono giocatori che si adeguano un pochino, cioè è lui che dovrebbe cambiare il modo di giocare, secondo me. Invece in nazionale la soluzione con Rossi più, che veniva dietro, ma più una punta fisica, quindi un tandem fisico, quindi sempre no, uno un poteva essere perfetto il Sharawi, ma si è perso nella nebbia peggio di quella che c'era di per Natale. Lui stamattina. Sì, no, di Natale, no, di Natale Sharawi, questi sono giocatori, ma soprattutto Sharawi è un giocatore che tatticamente ha espresso il meglio di sé giocando in una maniera diversa da quella che propone Prandelli. Un'altra cosa sul Milan, Serse, la situazione Allegri. Tu come la leggi? Cioè, è un allenatore esautorato dall'inizio dell'anno, adesso ha detto che va via. Io sono dell'idea che un allenatore a tempo in questo modo, un allenatore precario in questo modo, non possa avere grande presa sui giocatori. Sì, considerando come sono i giocatori soprattutto. Esatto. Come la cultura del nostro calcio, dei giocatori, quindi del nostro calcio, perché i giocatori italiani sono figli della nostra cultura, quindi... non mi preoccupa quello che succede di Allegri da adesso alla fine. Ero più preoccupato di quello che sarebbe successo da luglio a oggi, e infatti i risultati parlano chiaro, perché adesso non voglio dire, cioè io non voglio pensare che il Milan tiene un allenatore tanto per tenerlo. Cioè, ci ha fatto così, no? Per un anno, perché sarebbe una follia, non era Milan, insomma. E poi altre cose mi hanno fatto capire che anche il Milan può fare le cazzate, quindi cioè, voglio dire, non... allora... gli errori li fa anche il Milan, perché cioè... sennò stiamo qui a parlare. Sì. Però ecco, io mi identifico nel Milan, mi identifico in Galliani. E non penso che lui potesse fare un errore del genere. Sì, ma io ho l'idea che comunque Allegri fosse comunque l'uomo designato da Galliani, che Berlusconi avesse altre idee che sono quelle che si concretizzeranno con Seedorf, e quindi la soluzione oggi, di compromesso è questa. È stata oggi questa. C'è una situazione che va avanti per forza d'inerzia, sì. Dove giustamente si dice c'è un piccolo particolare che è la Champions, e quindi è normale che... Cioè, voglio dire, come puoi non pensare di giocare bene la Champions? Però è anche vero, vorrei essere non smentito, ma di più, che il Milan è difficile che possa. Milan va fuori vincere. Con l'Atletico Madrid, secondo me. Allora, ma no, questo non lo so, magari. Non lo so, dico. Però è abbastanza equilibrato. Però l'Atletico. No, questo non lo so, però è difficile che la vinca. Nel momento in cui, ripeto, malauguratamente, dovesse andare fuori, là c'è la Coppa Italia. Cioè, quindi una maniera di gestire una stagione, ripeto, che non è da Milan. Ma certo, ma anche la classifica non è da Milan, anche le, comunque le, tutta la stagione intera è stata da Milan. Allora, devo dire due cose. Innanzitutto devo fare un appello ai followers, perché siamo a 14 follower dai 9.000, quindi... per tutti convocati. Bene. Poi adesso... c'è lo zio Bergomi che mi ha mandato un messaggio dicendo mi sono scordato Taider. È vero, anche Taider è stato fra i nuovi acquisti. È arrivato l'anno scorso, però. Lo zio ha la freccia alata di tutti i convocati, ci sente tutti i giorni e a ogni ora del giorno. Spesso Taider però è arrivato l'anno scorso. Sì, però fra i nuovi è evidentemente comunque tra i nuovi della passata stagione, sì, cioè non l'ha scelto certo Mazzarri. No, è arrivato quest'anno, quest'estate, sì. Un'ultima cosa, Serse Cosmi, prima di salutarti, allora dove vai ad allenare? Sono finite le squadre. Non lo so, o ne compro una, però è difficile, insomma. E no, lo so, aspettiamo. Io a lui una squadra la darei subito. Certo. Qualunque squadra. È passato il sosia di Djokovic, è passato anche il sosia di Shevchenko qui fuori. Ma c'è una panchina che ti ispira in maniera particolare, facendo un po' di fantacalcio, una squadra come, che ti piacerebbe allenare. Come giocatori, ovviamente, che hai in rosa. Ma quale squadra ti piace? Tatticamente, cioè, è chiaro, non il Real Madrid o il Barcellona, ma c'è una realtà che secondo te. Ecco, vedi che ha il telefono. Ecco, che ha il telefono. Ma tatticamente, cioè la Juve che gioca come giocava il Perugia 15 anni fa, insomma, quindi 3-5-2. Se dovessi fare per dire tatticamente, sì. Mi fermo alla tattica. Fermiamoci alla tattica. Grazie a Serse Cosmi. Adesso c'è il GR. Poi torniamo. Tutti convocati. Franchement, je pense que ça se jouera entre le 15 novembre et le 15 janvier au plus tard. Si vous jouez entre le 15 novembre et on va dire la fin du mois de décembre, c'est le moment où la météo est la plus favorable, où vous jouez avec une température qui est équivalente à celle d'un printemps un peu chaud en Europe. Hein, c'est-à-dire que vous jouez avec une température moyenne de 25 degrés. Donc c'est parfait pour jouer du football. La serie bolle di sapone, sì, questo sì. Falke, segretario generale della FIFA, ormai storia di ieri, che ha detto giochiamo in inverno e poi la FIFA ha detto no, aspetta un attimo, dobbiamo decidere, vediamo. Certo che nel deserto puoi fare d'estate, puoi andare a cercare le osi, puoi provare il cammello, come direbbe lo Tito, ma difficile giocare a pallone, no? Direi di sì, insomma lì il problema è all'origine la scelta di un paese anche interessante, anche in grande espansione, anche con un sacco di soldi, ma con problemi oggettivi dal punto di vista meteorologico per poter ospitare un mondiale. Abbiamo certo tanti ascoltatori. Certo che la finale del mondiale alla vigilia di Natale sarebbe un'esperienza interessante, ma tra 8 anni vediamo. Come vediamo, detto ieri, tra l'altro Totti sarà nonno, noi chissà dove saremo. 8 anni sono tanti, eccetera, eccetera, eccetera. D'estate fa caldo e d'inverno fa freddo. Siamo rimasti in sospeso prima di tornare agli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Siamo rimasti in sospeso con un Mazzarri che qui è stato insomma riproposto il paragone con il Milan, no? Sì. E lui sì. Ha detto cosa? Sentiamo. Poi si entra sul paragone Inter-Milan. L'anno scorso non ci scordiamo che il Milan è arrivato terzo. L'Inter, l'ho già detto, è arrivato terzo con la stessa rosa che aveva l'anno, che è ripartita quest'anno. E che in più, me l'hai suggerito te, hanno avuto dei giocatori in arrivo, come Balotelli, come Pazzini, come quelli che tu hai citato, e in questo momento fra noi e il Milan ci sono 9 punti di differenza. Quindi l'annata dell'Inter va valutata in un modo totalmente diverso da quello che potrebbe essere valutata quella del Milan, e lì non voglio entrare se non mi ci portano dentro. Diciamo... Questo Mazzarri sì, è un po' poco secondo me per il tifoso dell'Inter, questo paragone, insomma, questo essere a più 9. Ma a Milano grande depressione. Mancano 3 follower, tutti convocati. 3 me ne mancano. Ne mancano 3, sì. Gli ultimi 3 vinceranno. Niente. Però c'è Ernesto da Milano, ex presidente dell'Inter. Eccolo qua. Pronto? Ecco. Pronto Ernesto? Dove sei? Cosa stai facendo? Ci sei? È al casello. Pronto? Secondo me, perché ho sentito. Ernesto, sei al casello, di la verità. Scusatemi. Ascolti, io volevo dire una cosa. Vi sento continuare a parlare del Milan sì. Riguardo al fatto che deve comprare dei giocatori, dei difensori, dei centrocampisti e non delle punte. Sì. Però io, secondo me, io ho visto anche domenica, abbiamo creato 5-6 occasioni da gol e abbiamo fatto un gol solo. E quasi quasi nel secondo tempo gli altri pareggiano la partita. Cioè, secondo me una punta che veda la porta, che la butti dentro, ci vuole, perché a parte Balotelli e Kakà, certo, mi sembra che non abbiamo nessuno che la butta dentro. A questo scopo era stato preso Matri, che però sta fallendo con il Milan, perché è inutile usare altre parole, sta giocando una pessima stagione. Cioè, quindi un investimento ulteriore su una punta è stato anche fatto, no? Sì, mi sembra che insomma... Sì. No, è chiaro, cioè se Matri segnasse un po' di più sarebbe meglio, però diventiamo abbastanza lapalissiani in questo. Per me l'emergenza rimane più dietro che davanti, sinceramente, perché comunque il Milan ha tante soluzioni e con Onda ne avrà ancora di più. Ma sai, però, che ti dico, anche Fernando non mi sembra una pessima idea, sai che abbiamo al superato di là 9000 e un follower grandi, clamoroso. Al di là della... ce l'abbiamo fatta, ragazzi, sono fiero di voi. No, Fernando è un ottimo acquisto, perché può contribuire a dare le due fasi, no? Qualità e quantità al centrocampo, un giocatore esperto, un giocatore solido, un giocatore che ha proprio la doppia caratteristica, le due fasi. Ma insomma il Milan deve migliorare tante cose, secondo me non sbaglia l'ascoltatore quando dice che sicuramente l'attacco è un problema, o meglio la prima punta è un problema. Balotelli ha giocato poco quest'anno fra squalifiche e infortuni, comunque un po' di gol li ha fatti. Matri ha fatto un gol solo e sta faticando tantissimo, quindi sì, non ci sono dubbi da questo punto di vista. D'altra parte, quando guardi una squadra che ha quei punti in classifica, cioè è come prendere il mare col cucchiaino, no? Servono giocatori da tutte le parti, questo mi sembra evidente. Ruggero da Udine, come mai l'Udinese non sta ripetendo la stagione passata, Ruggero? Questa è la domanda a cui speravo di avere risposta. La domanda delle domande. Visto che appunto io proprio con voi volevo chiedervi, non riesco a capire come mai Guidolin, che è una persona che ho sempre apprezzato e ammiro come penso tutti i tifosi dell'Udinese, non sia un pochettino più spregiudicato e spavaldo in attacco, continuando a far fare i 90 minuti a Totò, che rimane nel cuore di tutti, però ma probabilmente che... una delle spiegazioni può essere questa, no? Cioè Di Natale ha giocato delle stagioni per cui mi mancano gli aggettivi, ovviamente positivi, tutte le cose finiscono, anche i grandi campioni e forse anche i grandi amori o i grandi rapporti come quello tra Guidolin e Udine. Cosa ne dici, Pier? Sì, beh, qualcosa sembra essersi rotto. C'era stato già in passato qualche momento così un po' di frustrazione da parte di Guidolin, di fondo sempre legato alla solita idea che la piazza avesse un po' la pancia piena, si fosse abituata troppo bene negli ultimi anni con grandi piazzamenti, grandi delusioni nei preliminari. In parte è vero. Sì, in parte è vero, però insomma... Intanto siamo a 9.013, quindi ragazzi mancano soltanto 987 follower per arrivare a 10.000. Ci siamo quasi, continuate, tutti convocati. Antonio Salerno, ave Antonio, che ciao. Passa? Te lo viene? Ciao a Pardo e Genta. Tutto a posto? Precisamente siamo da Sarno, provincia di Salerno. Ah, grande Sarno. E di cosa parliamo? Come? Di Napoli, di Salernitana, di Nocerino, di cosa parliamo? No, Massimo deve parlare della Sarnese che sta in categoria più bassa, quindi no. Parliamo dell'Inter. Sì. Io volevo chiedere a Genta perché gode quando l'Inter perde. Non era una curiosità. No, ma io non godo assolutamente. Posso fare una confessione, sì. Non gliene può fregare di meno, né in un senso né nella no, come del resto è un tema, Antonio, mi appello a te che sei saggio. Io invece non lo sono neanche un po', vabbè, c'è un saggio qui dentro. Non so perché dovrei godere. No, io Antonio, il punto è questo: ogni settimana, soprattutto con un campionato che è già morto o comunque che non si sente tanto bene, si cerca di trovare dei temi, degli spunti. E, insomma, ieri la Gazzetta dello Sport, ma non solo, ha aperto con la crisi dell'Inter. Non è che è cattiveria l'Inter, così come abbiamo sottolineato all'inizio della stagione quello che di buono stava facendo Mazzarri, in questo momento la notizia è la crisi dell'Inter. Magari due mesi fa era la crisi del Milan, che persiste peraltro, fra l'altro, sì, non è che persiste. Si sia sbloccato, cioè è un tema giornalistico, non è un accanimento o una cattiveria. Non è accanimento terapeutico. Dopo Firenze si era parlato della Juve con qualche preoccupazione, con qualcuno aveva anche fatto il processo, eppure insomma, per cui magari adesso l'Inter vince 10 partite consecutive. Può essere. Perché comunque ha svegliato i giocatori, cioè probabilmente è arrivata quella partita dove Conte non riusciva ad arrivare. Assolutamente. Comunque Modena. Antonio, prego. No, torniamo ad Antonio. Andiamo a Sarno, sì. Antonio. Dimmi. Questo abbiamo commentato la cosa che hai detto tu. Adesso se tu dici una cosa, commenti, dici che sei d'accordo oppure sei, cioè... No, oppure questa fatta conferenza stampa tu l'ha detto, un programma biennale. Voi vedete dove non si fa sentire, cioè non è vero, non è questo. Ma quando si parla, ma quindi, Antonio, tu sei un interista fiducioso? Io, no, non sono un interista fiducioso. Su questo sei, no, allora. Però vorrei avere lo stesso trattamento delle altre squadre, perché l'Inter dalla stampa è bistrattata. Cioè, non è vero, non sono d'accordo, Antonio. Perché è bistrattata l'Inter dalla stampa? Cioè, l'Inter è secondo me una squadra modesta per l'alto livello. È una squadra che merita la classifica che ha. Ha un nuovo presidente che sta dall'altra parte del mondo e che probabilmente delle logiche, diciamo così, del pallone non capisce, ancora non capisce tantissimo. Dunque, che cosa dobbiamo io dire? Io a Tiki-Taka ho avuto ospite a Viessanetti e Toir, e forse e quindi... mi scordo pure qualcuno. No, voglio dire, per cui anche grazie all'ufficio stampa e l'Inter l'abbiamo seguita con grande attenzione. Spero presto di avere Mazzarri. È un patrimonio del calcio italiano. Cioè io ci tengo, voglio dire, a che comunque torni ad essere una squadra competitiva. No, c'è questa cosa qui che vale, secondo me, adesso Antonio ci ha detto per l'Inter, ma anche altre squadre in certi momenti si sentono bistrattate. Io ai complotti mediatici non ci credo proprio, anche perché poi i tifosi per me sono intelligenti, cioè non è che se una squadra gioca male, anche ammesso che la stampa dice che gioca bene, poi il tifoso è contento, il tifoso la vede, anzi non vuole essere preso in giro. Daniele da Modena, prego Daniele. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Interista? io sono milanista. Io volevo intervenire sulle affermazioni in conferenza stampa di Mazzarri per difendere la sua Inter, ma ha fatto, secondo me, ha fatto dei paragoni non molto belli, anche perché mi risulta che il Milan dell'anno scorso, se ci mettiamo i 20 gol che ha fatto il Sharawi, i 15 che ha fatto Pazzini, ecco che troviamo tutta la differenza del Milan dell'anno scorso. Senza, sì, ma anche questo è un discorso storico. Mazzarri, senza far notare tutti gli altri infortuni che ha avuto. Beh, Mazzarri per la verità ha difeso la sua squadra, ha difeso il suo lavoro, ha difeso se stesso, quel parallelo non se l'ha inventato lui, ma gli è stato proposto, questo senza voler fare l'avvocato di mezzo di Mazzarri. Sì, ma... poi sono tutti discorsi ipotetici, no? Quest'anno i gol di El Shaarawy non ci sono, i gol di Pazzini non ci sono. Pazzini, a proposito di chi dice un altro attaccante per il Milan, un altro ancora. Sarebbe anche Pazzini, lungo De Gente e sparito una noi insieme a Braccio, allora, con Gomez. Ma se tu mi chiedi, rispetto ai presupposti, chi sta andando meglio, chi sta andando meno peggio fra Inter e Milan, credo sicuramente stia andando meno peggio l'Inter. Non è che c'è discussione. Vabbè, ci sono 9 punti in più in classifica. Però detto questo, che in un momento come questo di difficoltà, il primo vero momento di difficoltà della stagione, Mazzarri usi questo argomento, ci sta. Però io non so poi il tifoso interista quanto si a Roma, diciamo, consolati con l'aglietto, no? Cioè, è una cosa che non ha senso. Consolati con l'aglio, con l'aglietto si dice, vuol dire consolati con una piccola soddisfazione. Mi sembra un po' questo, cioè mi sembra in questo momento una sfida fra poveri. Ma secondo me il punto... la Milano calcistica è abituata da una parte e dall'altra a trionfi, vittorie, triplete, però coppe, secondo me campioni, il punto è un elicotteri. Altro. Sì. Né da una parte né dall'altra vedi un progetto di costruzione, è vero. Perché io credo che tutti i tifosi, tutti quanti dell'Inter e del Milan sarebbero disposti anche a vivere delle stagioni di sofferenza pur di vedere un piano di rilancio, di ricostruzione, cosa che io non vedo né nell'Inter né nel Milan, perché quali giocatori dell'Inter e del Milan sono funzionali a una ricostruzione? Pochissimi. Sicuramente, e i segnali, ne parlavamo anche prima con Luca Marchetti, per quanto riguarda l'Inter, segnala una certa austerity che sembra continuare in questa sessione di gennaio. E per quanto riguarda il Milan, mi sembra che ci sia invece la voglia di affidarsi a Seedorf, che per me è una figura estremamente carismatica e sono curiosissimo di vederlo come allenatore. Però è ovvio, io sono ottimista su Seedorf, perché secondo me se c'è un calciatore è vero, sono d'accordo, che da sempre abbiamo considerato un calciatore intelligente, poi delle volte San Siro fischiava, però se c'è un uomo calciatore che abbiamo conosciuto anche fuori dal campo che aveva le caratteristiche per poter essere un leader, secondo me quel signor lì è Clarence Seedorf, che non è mai stato però ben voluto dai tifosi del Milan, cioè è sempre stato uno di quelli anche questo è un bel tema di discussione, che magari sviluppiamo un altro giorno. Lì poi si fa pace presto, bastano 3 vittorie consecutive. Poco. Allora ringraziamo sempre The Bridge, ringraziamo Pitti, adesso andiamo a sfasciarci di ribollita e di minestra al farro. Laura Vanossi che è con la redazione, Paolo Corleone che è qui con la regia, Davide. Chioccia, Franco Pietani da Milano, credo che ci sia Filippo Aureggio a Milano, salutiamo. Con loro ieri sera abbiamo mangiato una cosetta leggera e adesso però c'è sempre qui da The Bridge, sempre da Pitti, sta arrivando Gegette Telesforo. E noi domani da Milano. Soundcheck, noi domani da Milano. Ciao.